falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Puntata sulla musica. Noi abbiamo raccontato tante volte la musica, tanti musicisti, abbiamo raccontato vite disperate, avventurose, epiloghi tragici, gloriosi o tragici e gloriosi al tempo stesso. Abbiamo parlato di molte tipologie umane. Bene, oggi parliamo di una persona che è sempre stata definita da tutti assolutamente insopportabile, musicista con un carattere difficile che è riuscito a non andare d'accordo praticamente con tutti quelli con cui ha suonato nella sua carriera. Però, c'è un però, e questo però è il fatto che stiamo parlando di uno dei più grandi chitarristi di tutti i tempi e dell'inventore di un riff che passerà alla storia probabilmente come il riff più famoso del rock, perché c'è una canzone che si chiama Smoke on the Water che tutti noi abbiamo cercato di imparare quando ci hanno messo in mano la prima chitarra, soprattutto quelli della mia generazione. Il riff è questo. È un inizio inconfondibile di Smoke on the Water. Parleremo dopo quando sarà il momento. Noi ci spostiamo nel Somerset in Inghilterra nel 1945. Qui nasce Richard Hugh Blackmore. Tutti lo chiamano Richie. Nasce Richie Blackmore, l'uomo che ha inventato questo riff e tante altre cose. Siamo in un periodo in cui non c'è la televisione o comunque non è diffusa, i ragazzini ascoltano la radio. In Inghilterra, come in gran parte d'Europa, si ascolta Radio Luxembourg, dove si suonano i grandi del rock and roll: Elvis Presley, Buddy Holly, Bill Haley. Questa è la musica che tutti ascoltano, la musica che tutti vogliono imitare. Così Richie, come tanti altri suoi coetanei, va a lezioni di chitarra. Ha tanti sogni nel cassetto, ma non ha molta voglia di esercitarsi. Non ho mai studiato molto. Avevo 11 anni quando ho provato a suonare la chitarra per la prima volta. Ma bisognava esercitarsi e io non ne avevo voglia. Il mio insegnante mi chiedeva: hai fatto pratica questa settimana? E io rispondevo: no. Allora vai a casa ed esercitati. Non sappiamo quanto si sia esercitato Richie Blackmore, fatto sta che imparare impara, è molto attento, coglie il meglio da chi gli sta vicino, e quando tra i suoi vicini di casa si stabilisce uno dei migliori turnisti di studio d'Inghilterra che si chiama Big Jim Sullivan, Richie Blackmore impara i trucchi del mestiere, diciamo così, ma soprattutto perfeziona la sua tecnica. I did a lot of session work. Ho fatto molta pratica quando avevo 16 anni, suonando nelle sale prova e durante le sessioni di registrazioni fino a 19-20 anni. Ero bravo e facevo fino a 4 sessioni al giorno guadagnando un sacco di soldi. E poi ho imparato la disciplina e ho conosciuto un sacco di gente. A 19 anni ero pronto per andare in giro e suonare in una band. È il momento giusto per dedicarsi totalmente alla musica, per cominciare a suonare in giro nei locali. È un periodo in cui nascono band che si sciolgono immediatamente per poi risorgere con un altro nome un attimo dopo. Blackmore suona in diverse situazioni, anche se non è ancora riuscito a trovare una dimensione stabile. Ma questo cambiare gli serve da palestra, e il suo è un nome che comincia a girare, cominciano a parlarne come uno dei chitarristi più bravi in circolazione tra le nuove leve. Va a Amburgo anche lui e suona nella band di supporto di Jerry Lee Lewis, insomma respira la stessa aria che hanno respirato i Beatles. Poi va in Italia, suona in un gruppo che si chiama The Trip. I Trip, il leader di questo gruppo è il mitico Joe Vescovi, peraltro il produttore di studio dei primi Decibel, da poco scomparso. E in quegli anni i Trip sono una delle prime band italiane di rock progressivo, quindi i brani sono lunghi, brani strumentali in cui i virtuosi sono due, Joe Vescovi e Richie Blackmore. It was Chris Curtis. Chris Curtis asked me to join. È stato Chris Curtis a chiedermi di tornare in Inghilterra per formare una band. E così lasciai Amburgo per tornare a Londra. E fu lì che incontrai John Lord. Cominciammo a suonare insieme e poi io e John decidemmo di cacciare Curtis dal gruppo. Ma questa è un'altra storia. Chris Curtis out, he was a little bit strange. That's another story. Questo Chris Curtis in realtà abbandona presto perché ha dei problemi psichici molto seri provocati dall'uso di LSD, lascia il gruppo che si chiama The Roundabout e così Blackmore e Lord, John Lord, rimangono da soli, si mettono a cercare altri musicisti per allargare la band, stanno per nascere i Deep Purple. Il falco e il gabbiano. John Lord e Richie Blackmore sono rimasti da soli, si sono liberati di questo Chris Curtis, devono costruire una band. Nessuno vuol far cadere nel nulla questo progetto musicale. Iniziano delle audizioni che portano questa band, che per ora si chiama Roundabout, a avvicinarsi a altri due grandi. Uno è il cantante, che è Rod Evans, e l'altro è uno dei più grandi batteristi di tutti i tempi, si chiama Ian Paice. Manca solo il bassista. Inizialmente il bassista è Nick Simper, però bisogna cambiare il nome per cancellare ogni traccia di Chris Curtis, e Richie Blackmore propone il titolo di una canzone di Peter DeRose, una canzone che state ascoltando, ben diversa dal genere che poi verrà fatto. La canzone però si chiama Deep Purple e il nome ha il suo appeal. È partita l'avventura di Richie Blackmore con i Deep Purple. C'è un singolo che è Hush, che è una cover, fa parte del primo album Shades of Deep Purple. Poi seguiranno altri album, uno molto interessante si chiama The Book of Taliesin. Canzoni elaborate, anche piuttosto lunghe, spesso è il confine tra hard rock e progressive è ancora molto sottile, ma Blackmore invece vuol far emergere ancora di più il suono della sua chitarra. Ash comunque arriva ai primi posti delle classifiche americane, questo spalanca le porte degli Stati Uniti al gruppo che inglese che si trova da un giorno all'altro ad assaporare il successo. Ma è il momento di dare alla band una svolta più estrema. E allora se ne vanno Nick Simper e soprattutto se ne va Rod Evans, che secondo me era un grande cantante, però aveva una voce molto calda, più alla Elvis Presley. Arriva al basso Roger Glover e poi arriva un cantante di, come dire, ben altra pasta vocale, perché arriva Ian Gillan. C'è un album suonato con la London Philharmonic Orchestra nel quale si mischiano musica classica e rock progressive. La band sembra, come dire, impantanata in una situazione di stallo. Ci vuole un colpo d'ala. L'uomo che riesce a focalizzare il nuovo obiettivo della band è lui, Richie Blackmore. Eh sì, perché l'Inghilterra sta cominciando a picchiare duro, perché ci sono i Black Sabbath, ci sono i Led Zeppelin, e Blackmore sa qual è la potenza che si può esprimere con la chitarra. Black Sabbath, Tony Iommi, Led Zeppelin, Jimmy Page. Quindi la chitarra in qualche modo comincia a diventare la nota caratteristica della band. La sua Fender Stratocaster, che la leggenda dice che gli sia stata regalata da Eric Clapton, diventa lo strumento principale del gruppo, anche se in realtà l'organo di John Lord, l'organo Hammond, è fondamentale, anche se in realtà Ian Paice è un batterista inimitabile, anche se in realtà la voce potente di Ian Gillan diventa una caratteristica dei Deep Purple, ma il capo per il momento è lui, Richie Blackmore. Esce Black Knight e sfonda. E poi arriva l'album di Purple in Rock, l'album della svolta. Sulla copertina i cinque volti dei componenti del gruppo compaiono scolpiti sul Monte Rushmore al posto dei presidenti americani. Quindi di Purple in Rock, ma anche di Purple nella pietra. E l'anno dopo, nel 71, arriva Fireball e nel 72 arriva l'album Machine Head. qui ci sono svolte e colpi d'ala non finire l'album. È una storia che fa parte veramente delle prime pagine della storia del rock. L'album viene registrato a Montreux, sul lago di Ginevra. Durante il concerto di Frank Zappa viene sparato un razzo segnaletico all'interno del casinò, il casinò prende fuoco, i Deep Purple proprio lì stavano registrando il loro album, quindi devono cominciare a trovare un altro posto, i Rolling Stones con il loro studio mobile vengono in loro soccorso, insomma si crea una lotta e una corsa contro il tempo. In tutto questo c'è Roger Glover che si narra, osservando il fumo, abbia scritto un testo che è passato alla storia, anche se in maniera un po' infantile. Il testo dice proprio: eravamo andati a Montreux per registrare il disco, non avevamo tempo, Frank Zappa and the Mole, insomma racconta la storia che diventa fumo sull'acqua, fuoco nel cielo, smoke on the water and fire in the sky. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia del grande chitarrista inglese Ritchie Blackmore, che raggiunge il successo con il gruppo che lui ha formato assieme a John Lord e a questo punto anche con Ian Paice, Roger Glover e Ian Gillan, cioè i Deep Purple. E stiamo anche raccontando di uno dei caratteri peggiori della storia del rock and roll. Tutta la storia dei Deep Purple è caratterizzata da questo grande scontro di personalità, perché qui sono tutti dei virtuosi. John Lord è un grandissimo tastierista, Ian Gillan è un cantante eccezionale e Ian Paice come batterista non è da meno. Il vero successo dei Deep Purple avviene in maniera strana, come spesso succedeva però in quegli anni, cioè dopo Machine Head, per motivi più contrattuali che altro, i Deep Purple devono incidere un album, gli viene imposto loro di andare a registrare un live in Giappone. Loro inizialmente sono contrari, dicono va bene purché esca solo in Giappone. Made in Japan in realtà è la esatta fotografia di un concerto di Deep Purple, 7 canzoni, come sempre accadeva negli album dei Deep Purple, 7 brani, questa volta però 7 brani in un album doppio, quindi 2 brani a facciata con una facciata con un solo brano. Quindi immaginate come tutto venisse dilatato a favore delle grandi individualità del rock. Bene, l'album Made in Japan non esce solo in Giappone, alla fine esce in tutto il mondo e diventa il vero coronamento della carriera dei Deep Purple. Non passò molto tempo che Ian ci fece vedere di cosa era capace. Avevamo tutti molti soldi e lui non si tratteneva dal goderseli in ogni modo possibile. Ma d'altronde era un'abitudine abbastanza comune a quei tempi. Ma Ian andò oltre ogni limite. Come purtroppo spesso accade, immediatamente dopo il successo planetario arrivano i problemi. Intanto escono 2 album che sono di caratura inferiore rispetto a Machine Head e ovviamente a Made in Japan, sono What Do You Think We Are e Burn, 2 belli album di rock ma già lontani un po' dai fasti precedenti. E poi arriva la droga, arriva Ian Gillan che in qualche modo non riesce più a sostenere i ritmi di lavoro che Lord e Blackmore vorrebbero mantenere. Tra Blackmore e Gillan c'è veramente uno scontro asprissimo. Blackmore che si racconta improvvisi assoli con melodie diverse per poi mettere in difficoltà Ian Gillan al rientro, insomma la magia del gruppo è rovinata per sempre. A questo punto Gillan insieme al bassista abbandona i Deep Purple, arrivano Glenn Hughes e soprattutto David Coverdale, un altro sul quale un giorno bisognerà fare una puntata, grande cantante poi nei Whitesnake eccetera eccetera. Ma soprattutto poco dopo sarà lo stesso Blackmore ad abbandonare i Deep Purple. Ma il mondo del rock per il momento non perde il suo eroe, perché immediatamente dopo il divorzio dai Deep Purple, Ritchie Blackmore dà vita a un nuovo progetto musicale, i Rainbow. in questo gruppo ci sono due individualità a confronto. Uno è Richie Blackmore e l'altro è un cantante di cui peraltro abbiamo già parlato in passato, una meravigliosa vocalità votata al rock, Ronnie James Dio. Blackmore e Ronnie James Dio prendono in qualche modo le redini del gruppo, e che ha uno stile piuttosto diverso da quello di Deep Purple, brani molto più lunghi, quindi Blackmore può, come dire, sbizzarrirsi maggiormente. Poi la voce di Ronnie James Dio più evocativa, meno graffiante forse di Ian Gillan, ma qua non voglio irritare nessuno dei fan delle due personalità, diciamo che sono molto diversi. E con i Rainbow Blackmore trova la sua dimensione, soprattutto all'inizio. Blackmore dei Rainbow è il leader indiscusso. I learned so much from him. I really learned so much from him. I learned good things and I learned bad things. So I learned what not to do. Ho imparato sia le cose buone sia quelle cattive, così afferma Ronnie James Dio parlando di Richie Blackmore. Le cose cattive sono il pessimo rapporto che Blackmore ha col pubblico: lui non concede interviste, non fa autografi, non fa nulla per rendersi simpatico, e oltre a tutto questo, insomma, è anche un notevole despota. Così nei Rainbow cominciano a cambiare gli elementi. Però fino a che cambia magari un bassista o magari anche un batterista, la situazione è ancora risolvibile. Il problema è che a un certo punto Blackmore entra in collisione anche con Ronnie James Dio. Tra l'altro, intanto nel valzer di musicisti che entrano e escono ritorna anche Roger Glover, con cui Blackmore aveva suonato nei Deep Purple. Però insomma, nessun membro dei Rainbow può sentirsi sicuro del posto di lavoro. E poi, come spesso accade nel rock, che è un mondo nel quale non si divorzia e non ci si sposa mai definitivamente, c'è un colpo d'ala. Nel 83 i Deep Purple cominciano, come dire, a riparlarsi, e nel novembre dell'84 esce la reunion che si chiama Perfect Strangers, titolo sintomatico, perfetti stranieri. I Deep Purple, un po' da separati in casa, ma comunque con rispetto, ricominciano a scrivere canzoni e andare in tournée, e qui io li ho visti in concerto, un concerto peraltro nel quale Blackmore per tutta la sera non ha fatto altro che litigare con il tecnico di sinistra, con il tecnico davanti, con la chitarra, però tutto questo insomma suonando come sappiamo lui sa suonare. Passano 10 anni di convivenza forzata, 2 album in studio, un doppio live, Nobody's Perfect, la vita però non è particolarmente tranquilla. Insomma, nel 1994 Blackmore abbandona definitivamente la band quasi in corso d'opera, la tournée viene finita da Joe Satriani, che non è poco. Poi nel 94 entrerà un chitarrista destinato a lasciare il segno nei Deep Purple, perché entrerà Steve Morse. Nella vita di Richie Blackmore però si sta preparando l'ennesimo colpo d'ala, e questa volta è legato a un incontro con una donna, Candice Night. I think we met on a soccer field. Mi sembra che ci incontrammo durante una partita di calcio organizzata per un evento di beneficenza quando ancora suonavo nei Deep Purple. Candice era tra il pubblico. Io la notai e volli conoscerla. Ecco come andò. That's basically how we met, isn't it? In a nutshell. Candice Night, americana, 26 anni meno di Blackmore. Pur essendo americana, suona una musica tradizionale legata al mondo medievale. Insomma, apparentemente non ci sono punti di accordo tra i due. Invece scatta una scintilla che fa nascere l'amore, e poi fa nascere un nuovo progetto musicale, The Blackmore's Night, un gruppo che si dedica alla musica celtica etnica con qualche sporadica influenza di hard rock. Insomma, Blackmore per amore viene anche, come dire, tranquillizzato, forse finalmente direi, da Candice Night. Abbandona la Fender Stratocaster, suona mandolino, liuto, gironda, dà sfogo alle sue grandi capacità tecniche che erano già evidenti, ma che insomma vengono canalizzate in un altro tipo di musica. Insomma, un colpo d'ala notevole che cambia drasticamente lo stile di Richie Blackmore. Non so, è un po' come se il campione del mondo di salto con l'asta di colpo decidesse di darsi al motociclismo. Lui che ha gettato le basi per il moderno heavy metal lascia il posto a queste atmosfere bucoliche. Vogliamo sperare che questo sia avvenuto per una ritrovata pace interiore e una pace col mondo. Lui che è sempre stato la principale causa dei conflitti con tutti i musicisti con i quali ha suonato nella carriera, però insomma rimangono scolpite nella storia del rock le note inconfondibili di Blackmore, che più volte Blackmore ha parlato del riff di Smoke on the Water paragonandolo alle poche note con cui Beethoven strabiliò il mondo con l'attacco della sua quinta sinfonia. Beethoven, bom bom bom bom bom bom bom bom, I thought play that backwards, put something to it and you've got bom bom bom bom bom bom bom. That's how I came up with it. It's an interpretation. È una reinterpretazione della quinta di Beethoven. Quindi io gli devo un sacco di soldi. So I owe him a lot of money. Bene, chissà se un giorno o l'altro Richie Blackmore abbandonerà, magari anche per una volta sola, mandolini, liuti, tornando magari anche a suonare con i Deep Purple. Purtroppo John Lord non potrà più essere della partita e quindi insomma converrebbe sbrigarsi. Quello che resta però nella vita artistica di Richie Blackmore sono le sue grandissime creazioni musicali, il suo modo così particolare di suonare la chitarra, il suo stile che ha ispirato migliaia di musicisti che magari sono partiti da quei quattro magici accordi e poi hanno scoperto un mondo di grande talento, gusto e innovazione. Noi vi aspettiamo con altre storie, segnalateci se anche voi conoscete una storia che secondo voi merita di essere raccontata, oppure seguitemi sul sito di Radio 24, oppure sui miei social, sui nostri social, insomma, se volete sapete dove trovarmi. Ciao, a lunedì. If I'm high.